Il Natale confrontato con il Vangelo. Ogni popolo ha le proprie feste religiose, ma ve ne è una che viene osservata in tutto il mondo. Il Natale. Per molti esso è tempo di gioia, vacanze, viaggi, feste, ritrovi, doni. Per altri invece è uno dei periodi più tristi dell'anno, perché il peso dei loro problemi e della loro solitudine sembra accentuarsi. Prendiamo quindi in considerazione questa festività non per disprezzarla, ma per demitizzarla, cioè per toglierle quel mito del quale l'abbiamo circondata. Il Natale li presenta a noi, con dei re sui troni, pastori nei campi, angeli nei cieli, persone pie al tempio, ma tutti questi personaggi sembrano offuscarsi davanti alla gloria de deve avere tutta la nostra attenzione. Il bambino nella mangiatoia. Una valutazione sbagliata della festa del Natale può portarci lontano da Dio e dal vero messaggio che noi dobbiamo ricevere e predicare. Perciò, per non cadere vittime di errori, vedremo prima alcuni dati storici, in seguito confronteremo il Natale con il messaggio del Vangelo. Dati storici. L'origine della festività del Natale è stata molto discussa. Si riconosce ormai universalmente che una festa della Natività di Gesù è ignota ai padri dei primi tre secoli e che manca una tradizione autorevole circa la data della nascita di Cristo. Sulla scelta del 25 dicembre come giorno di Natale del Salvatore ha influito il calendario civile romano che, dalla fine del III secolo, celebrava in quel giorno il solstizio invernale del sole invitto. I cristiani vollero così opporre e sovrapporre alla festa pagana la festa della nascita del vero sole, Cristo, riprendendo le parole del profeta Malachia, che definisce il Messia, sole di giustizia. Alcuni scritti del III secolo collocavano al 6 gennaio o intorno all'equinozio primaverile, 25 e poi 21, marzo, la festa della nascita di Gesù. La nascita di Gesù avvenne almeno 5 anni prima dell'anno zero, secondo il calendario cosiddetto cristiano, in uso. In altre parole, dovremmo aggiungere almeno 4 anni all'anno odierno. Il fatto che l'umanità abbia scelto di calcolare la storia con riferimento alla nascita di Gesù costituisce per noi un motivo per testimoniare il vero Evangelo. Ecco dunque 10 accostamenti del Natale con il messaggio del Vangelo dei primi cristiani. 1. Marco 1, 1 a 5. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Secondo quanto è scritto nel profeta Isaia, ecco, io mando davanti a te il mio messaggero a prepararti la via. Voce di uno che grida nel deserto. Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Venne Giovanni il Battista nel deserto, predicando un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati. E tutto il paese della Giudea e tutti quelli di Gerusalemme accorrevano a lui ed erano da lui battezzati nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Gli studiosi affermano che l'Evangelo di Marco è stato il primo ad essere redatto, forse intorno al 50 d.C. Se la nascita di Gesù fosse stata così importante, Marco non avrebbe omesso il racconto della nascita del Salvatore. Anzi, Marco inizia con l'affermare che il principio del Vangelo inizia con il ministero di Giovanni Battista. Ciò dimostra che la nascita di Gesù non aveva l'importanza che il mondo oggi le attribuisce. 2. Giovanni 1, 1 a 9. Nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno sopraffatta. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Egli venne come testimone per render testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli stesso non era la luce, ma venne per render testimonianza alla luce. La vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. Mentre tutti e quattro gli Evangeli narrano la morte e la resurrezione di Gesù, Marco e Giovanni non descrivono la sua nascita. Marco inizia con il ministero di Giovanni il Battista, Giovanni inizia con la preesistenza di Gesù. L'omissione della nascita di Gesù non è casuale e concorda con la testimonianza storica dei primi cristiani. 3:1 Corinzi 15:1-9. Vi ricordo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunziato, che voi avete anche ricevuto, nel quale state anche saldi, mediante il quale siete salvati, purché lo riteniate quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano. Poiché vi ho prima di tutto trasmesso come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le Scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli, e ultimo di tutti, apparve anche a me come all'aborto. Perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. In questa parte della lettera ai Corinzi, Paolo riassume il Vangelo che ha predicato, che i Corinzi hanno accettato e mediante il quale sono stati salvati. Notiamo che Paolo inizia col parlare della morte di Cristo, prosegue con la sua sepoltura e la sua resurrezione, neppure un cenno alla nascita di Gesù. Se la nascita di Gesù fosse stata uno degli argomenti più importanti, avrebbe Paolo, nell'esporre il riassunto del messaggio del Vangelo, omesso un particolare così essenziale? È evidente che se Gesù è morto e risorto, egli doveva essere nato. Ma il centro del messaggio degli Apostoli non era costituito dalla sua nascita, ma dalla la sua resurrezione. In tutto il capitolo 15 dei Corinzi, Paolo difenderà la resurrezione di Gesù affermando categoricamente che se Gesù non è risuscitato, vana è la vostra fede. Voi siete ancora nei vostri peccati, versetto 17. E ancora, se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miserabili fra tutti gli uomini, versetto 19. Tutte le religioni hanno i loro fondatori e ricordano la loro nascita, se ciò è possibile, ma essi sono tutti morti. Il cristianesimo è l'unica religione che ha come principale argomento la resurrezione del suo fondatore vivente e non la sua nascita. La nascita di Gesù portò Dio all'uomo, ma ci vollero la sua morte e la sua resurrezione per portare l'uomo a Dio. 4:1 Corinzi 11:23-26. Poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo, ogni volta che ne berrete, in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché egli venga. La cena del Signore è stata istituita da Gesù perché noi ricordassimo la sua morte e la sua resurrezione. Questo è il messaggio del Vangelo, quello che ha trasformato la vita dei primi discepoli, i quali prima timorosi in seguito presero coraggio dopo che Gesù fu risorto. I cristiani ricordano ogni domenica il sacrificio di Gesù, la sua resurrezione e il suo ritorno, e non principalmente la sua nascita. L'incarnazione di Gesù è chiaramente sottintesa, ma non è oggetto di festa. 5. Romani 5:7-8. Difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Paolo non scrisse: Cristo è nato per noi, ma Cristo è morto per noi. La croce ci ricorda che noi siamo dei peccatori. Gesù non è morto perché era una persona per bene, ma perché noi avevamo bisogno di un Salvatore, perché siamo per natura dei peccatori perduti. Quello del Natale è un messaggio attraente, affascinante, perché vediamo un bambino nella culla, attorniato da un asino e un bue. Maria e Giuseppe chinati con un gesto di riverenza. Tutto questo tocca i nostri sentimenti, facendoci sentire più vicini a Dio, ma tutto fa leva soprattutto sulla sfera affettiva. Il messaggio della croce non fa leva sull'emotività, non suscita affetti naturali, ma ci ricorda continuamente i nostri peccati, le nostre colpe. E questo non fa piacere a nessuno. 6. Matteo 27, 45-50. Dall'ora sesta si fecero tenebre su tutto il paese, fino all'ora nona. E, verso l'ora nona, Gesù gridò a gran voce, «Eli, Eli, lama sabachthani?» Cioè, Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano, «Costui chiama Elia». E subito uno di loro corse a prendere una spugna e, inzuppatala di aceto, la pose in cima a una canna e gli diede da bere. Ma gli altri dicevano, «Lascia, vediamo se Elia viene a salvarlo». E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito. L'episodio della morte di Cristo in croce ci rivela la giustizia di Dio. Noi non avremmo mai saputo quanto Dio odia il peccato se Gesù non fosse morto in croce e Dio non lo avesse abbandonato. In un mondo dove vi è la tendenza all'universalismo, cioè a credere che Dio alla fine perdonerà tutti, è più che mai necessario predicare che è terribile cadere nelle mani del Dio vivente, Ebrei 10:31, e che il nostro Dio è anche un fuoco consumante, Ebrei mezzogiorno 29. Dare eccessiva importanza alla nascita di Cristo si immunizza la persona verso una reale comprensione del piano della salvezza. 7. 1 Giovanni 4:10. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato suo Figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Secondo gli Apostoli, è la croce che ci ha rivelato l'amore di Dio e di Gesù Cristo. Il ricordo della nascita di Cristo ci può portare a ricordare il miracolo del concepimento di Maria, ma è nell'avere offerto suo Figlio che Dio ha rivelato il suo amore. E è evidente che ogni opera di Dio, compresa l'incarnazione, è una dimostrazione dell'amore di Dio, ma gli apostoli hanno messo enfasi sul sacrificio di Gesù Cristo e non sulla sua nascita. Non vi è una sola affermazione apostolica che metta in evidenza l'amore di Gesù per la sua nascita, piuttosto vi è quella di Paolo che mette in risalto lo stato sociale del Salvatore. Infatti voi conoscete la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per voi affinché mediante la sua povertà voi poteste diventare ricchi. 2 Corinzi 8:9. La manifestazione dell'amore di Gesù è stata quella di entrare nella scena di questo mondo non in una reggia, accolto e applaudito da tutti, ma molto probabilmente in una stalla, coricato in una mangiatoia, espressione questa, riportata per 3 volte dall'Evangelista Luca. Ma anche questo aspetto deve essere ridimensionato perché troppi si sono soffermati alla stalla per considerare la povertà di Gesù. La sua povertà non consiste tanto nel nascere in una stalla al freddo e al gelo. La vera povertà di Gesù consiste nel farsi uomo. Fosse egli nato nel migliore albergo di Gerusalemme o all'ospedale più specializzato di oggi, la sua povertà sarebbe stata sempre enorme. 8. Giovanni 3:36. Chi crede nel Figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Il messaggio della croce ci ricorda il giudizio e l'inferno. Il Natale invece è sempre vissuto all'insegna di una bella musica, possibilmente con la neve, vicino ad un camino con i propri familiari. Tutto ciò allontana dalla tremenda responsabilità dell'uomo di credere nell'opera salvifica di Cristo. Dio non manda all'inferno nessuno. E è l'uomo che rifiuta di credere all'unica via che lui ha stabilito affinché egli possa essere salvato. Ricordare che l'ira di Dio è sull'uomo e vi rimane se questo rigetta il suo amore, disturba. Dio non chiude un occhio su chi è colpevole. Ecco perché il Natale è una festività preferita in tutto il mondo. Ci ricorda il dono, ma non il pericolo. 9. 2 Corinzi 5. 14:15. Infatti l'amore di Cristo ci costringe, perché siamo giunti a questa conclusione, che uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono, e che egli morì per tutti, affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Paolo era giunto ad una conclusione: Gesù è morto perché tutti sono morti, cioè perduti. Poi aggiunge che egli è morto affinché quelli che vivono, cioè i cristiani, non vivano più per loro stessi. Cristo non è morto solo per essere il Salvatore, ma anche il Signore. La croce ci parla della consacrazione del cristiano per amore di colui che è morto per lui. Il Natale non porta questo messaggio. Certo, per morire Gesù è nato, ma sono nati anche Maometto, Buddha, Confucio. Questo però non ha affatto cambiato la vita di nessuno. Il messaggio del Natale non invita a consacrare la vita, ad essere riconoscenti per l'amore di Cristo. Si apprezza il Natale nel modo giusto solo dopo aver compreso la croce. Questo è il fatto. 10. Romani 8, 31-39. Che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo. Gesù è colui che è morto e ancor più è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come è scritto, per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno. Siamo stati considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte né vita né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura, potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. In questo inno di vittoria Paolo non accenna alla nascita di Gesù. Egli ricorda che il credente è giustificato, perché Gesù è morto e ancor più risuscitato. Per il cristiano, la resurrezione di Gesù costituisce l'avvenimento più importante, perché, per questo, egli è alla destra di Dio e intercede per coloro che hanno posto la fede salvifica in lui. Si può festeggiare il Natale, si può credere alla nascita di Gesù e continuare ad essere perduti, mentre non si può credere al sacrificio e alla resurrezione di Cristo e rimanere sempre gli stessi. Le luci e la festa del Natale oscurano l'aspetto più importante dell'opera di Cristo. E la fede nel messaggio della croce e della resurrezione di Cristo che ha cambiato la vita dei cristiani nel corso dei secoli. E l'accettazione di Gesù come Signore e Salvatore che ci permette di entrare nel regno dei cieli. Una volta diventati figli di Dio, il Natale avrà il suo posto, il giusto posto, come del resto ogni altra cosa. Non possiamo fermare lo spirito del Natale, ma possiamo lasciarsi trasformare dallo spirito di Dio che operò in quel primo Natale e può far sì che Cristo viva in noi e faccia ogni giorno un Natale, cioè godere della presenza di Gesù Cristo in noi e con noi. Predichiamo quindi il messaggio della morte e della resurrezione di Gesù se vogliamo adempiere al mandato di Cristo, perché il Vangelo è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Novembre 2005, Ellero,